Focus Economia. Sei minuti, Focus Economia, ben trovati da Vincenzo Miglietta. Anche oggi sguardo puntato sui mercati, con Piazza Affari influenzata per il terzo giorno consecutivo dal settore bancario. Giornata che ha vissuto alti e bassi, partenza sprint, infatti questa mattina con segni positivi per Banca Popolare Emilia Romagna, Monte dei Paschi di Siena, Unicredit, quest'ultima spinta dai conti semestrali, quindi la frenata a metà giornata che ha riguardato soprattutto la stessa Unicredit. Scelte di investimento apparentemente incomprensibili e che oggi, come ieri, vanno a penalizzare chi presenta dei conti positivi anche sopra le attese al momento. Migliore e peggiore del FTSE MIB, i peggiori: Leonardo Finmeccanica meno 2,72%, Recordati meno 2,39%, Unicredit meno 2,01%, A2A meno 1,81%, IUX meno 1,28%. I migliori del FTSE MIB: Fiat Chrysler più 7,80%, Banca Popolare Emilia Romagna più 5,87%, Monte dei Paschi più 3,77%, Exor più 3,31%, Unipol più 2,96%, per un FTSE MIB che in questo momento in generale segna un più 0,25% a 16.098 punti. Per quanto riguarda le altre borse continentali, DAX Francoforte più 0,16%, FTSE 100 Londra in sostanziale parità, CAC Parigi meno 0,29%, Wall Street Dow Jones più 0,10%, Standard & Poor's 500 più 0,03%, euro su dollaro 1,117. Il tema banche resta dunque in primo piano con grande attenzione da parte del governo. Ieri il presidente del Consiglio Renzi ha puntato il dito su due problemi: da una parte la presenza dei politici nelle banche, che secondo il premier ha peggiorato molte scelte. Le banche, ha detto, devono essere nelle mani dei mercati e non dei politici, quindi le critiche al bail-in. La direttiva europea per Renzi è un disastro che mette a carico di azionisti ed obbligazionisti subordinati i costi delle crisi bancarie. Il momento è comunque delicato per il sistema del credito, i mercati aspettano rassicurazioni. Poco fa è intervenuto in Parlamento lo stesso ministro dell'economia Padoan: il sistema italiano non è in crisi sistemica, ha detto Padoan, né è fonte di problemi per gli altri sistemi bancari. Parleremo quindi di consumi e crescita grazie al rapporto Club Consumo di Prometeia. La fiducia delle famiglie dopo un promettente 2015 segna una flessione nel primo semestre dell'anno. Il 2016, secondo il rapporto, dovrebbe comunque vedere un aumento dell'1%. A fornire il maggior contributo alla crescita saranno ancora i comparti non alimentari. Questo dunque il nostro programma di oggi. Potete scriverci al 349-238-6666 oppure sulla pagina di Focus Economia del sito di Radio 24. Passiamo ora alle notizie in breve. E partiamo per le notizie in breve delle materie prime. Dalla quotazione dell'oro meno 0,6% a $1,356 l'oncia, il petrolio più 1,4% a $40 il barile. Il Bitcoin, la moneta elettronica, affonda dopo che la piattaforma di scambio Bitfinex ha annunciato di essere stata vittima di un cyberattacco con il furto di $65 milioni di Bitcoin. L'attacco pesa sulle quotazioni della valuta virtuale, che arriva a perdere il 22% a $480. Stati Uniti e poi Gran Bretagna. Il settore privato americano ha creato in luglio 179.000 posti di lavoro, lo afferma il sondaggio dell'ADP. Il dato è migliore delle attese degli analisti, che scommettevano su 170.000 posti. Il dato ufficiale sul mercato del lavoro sarà comunque comunicato venerdì. Un dato ora relativo alla Gran Bretagna e alla Brexit. Secondo alcuni vi sono già degli effetti della scelta della Gran Bretagna di uscire dall'Unione Europea. Il settore dei servizi della Gran Bretagna, la componente maggiore dell'economia del Regno Unito, segna una contrazione che lo riporta ai livelli di 7 anni fa. Lo evidenzia l'indice PMI Servizi, rilevato da Markets Economics, che a luglio è sceso a 47,4 punti dai 52,3 di giugno, è il livello più basso dal marzo 2009. E rimanendo a Londra, diventa sempre più probabile, secondo i media britannici, un taglio dei tassi di interesse da parte della Bank of England, la cui riunione del Monetary Policy Committee è in programma domani, sullo sfondo di una serie di dati economici negativi e dei timori di una recessione, fra l'altro legati anche lì all'instabilità della Brexit. La banca centrale potrebbe ridurli dall'attuale 0,5 allo 0,25%. Germania, via libera del governo tedesco ad un piano di 270 miliardi di investimenti in infrastrutture fino al 2030. Il fondo, approvato oggi dal Consiglio dei Ministri su proposta del vice cancelliere e ministro dell'economia Sigmar Gabriel, sarà destinato alla realizzazione di infrastrutture ferroviarie, stradali ed idriche, con l'obiettivo primario di incrementare quanto già esiste, eliminando le principali criticità. Metà del fondo è destinato a strade ed autostrade, mentre il 42% va alla rete ferroviaria. Dicevamo dei consumi, con l'indagine di Prometeia prosegue in Italia la ripresa dei consumi interni, che però rimane debole anche rispetto agli altri paesi europei. Lo evidenzia l'aggiornamento di luglio del rapporto Club Consumo. Nel primo trimestre 2016 i consumi interni hanno mostrato un aumento più 0,3% sul precedente e più 1,6% sul corrispondente a prezzi costanti, contribuendo per 0,2 di punto alla crescita del prodotto interno lordo. Più vivaci i beni durevoli, più 6%, ma sempre inferiori rispetto agli altri paesi europei. Parliamo di Equitalia. Sono almeno 88.000 i debitori di Equitalia decaduti che potrebbero accedere alle nuove rateizzazioni previste dal decreto legge enti locali, per un ammontare di 3,7 miliardi di importi recuperabili. È la stima, secondo fonti di Equitalia, basata su quanti avevano aderito alla possibilità di riaprire la rateizzazione di luglio 2014, marzo e ottobre 2015, ma poi sono nuovamente decaduti. Abbiamo parlato di Veneto Banca lungamente anche ieri. Oggi giornata di intenso lavoro sulle carte e sul materiale informatico sequestrato per la Guardia di Finanza di Venezia dopo l'operazione che ieri ha portato all'arresto dell'ex amministratore delegato di Veneto Banca Consoli e alle perquisizioni nei confronti di 14 indagati. I militari delle Fiamme Gialle, del nucleo di polizia valutaria e di polizia tributaria hanno acquisito diversa documentazione informatica presso la sede centrale dell'istituto a Montebelluna. Ed ora precediamo il nostro principale approfondimento, che come nei giorni precedenti sarà dedicato alle banche. Sulle banche si è espresso Moody's e dice: i gruppi industriali italiani sono ampiamente immuni ai dolori delle banche nazionali. E questa è l'analisi di Moody's, che sottolinea come le società non finanziarie non verrebbero toccate da una potenziale riduzione dei prestiti, considerato che poche di queste si appoggiano su linee di credito uncommitted, ovvero quelle passibili di revoca a vista, che le banche potrebbero revocare o restringere per ridurre i loro problemi sul fronte dei prestiti o per aumentare il proprio capitale. Nella maggior parte dei casi, spiega l'agenzia di rating, l'esposizione delle società italiane è modesta, i prestiti sono a lungo termine e committed. Financial Times analizza le parole di ieri del Presidente del Consiglio Renzi relative al Monte dei Paschi di Siena, l'ottimismo del Presidente del Consiglio Renzi. E secondo il Financial Times, dopo il piano per la banca senese messo a punto venerdì scorso, ogni sollievo per Renzi sarà mitigato da una fredda reazione degli investitori all'inizio della settimana, che suggerisce come i problemi delle banche italiane potrebbero continuare a perseguitare il suo governo per le settimane, se non mesi a venire. Questo lo scrive il Financial Times. In effetti i mercati stanno penalizzando, almeno in questi primi giorni della settimana, un po' tutto il comparto del settore bancario. Allora noi con le notizie in breve ci fermiamo qui e passiamo proprio al nostro primo approfondimento. Primo approfondimento che dedichiamo alle banche e soprattutto, lo dicevamo all'inizio, all'intervento del governo nella persona del ministro dell'economia Padoan pochi minuti fa in Parlamento, un'informativa urgente che ha dato poi seguito a un dibattito parlamentare che è ancora in corso. Che cosa chiedevano i gruppi parlamentari al governo? Chiedevano di spiegare cosa sta accadendo al settore bancario, soprattutto dopo gli stress test che hanno di fatto promosso la maggior parte degli istituti italiani, ma poi da lunedì, lo stiamo seguendo insieme, il mercato non ha premiato gli istituti italiani. Allora oggi è intervenuto, dicevamo, il ministro dell'economia Padoan. Durante queste settimane, ha detto Padoan, abbiamo assistito anche a polemiche in Consulta, il governo è stato accusato alternativamente di non aver fatto nulla o al contrario di aver interferito oltre le proprie prerogative sul settore del credito. Questa è la spiegazione del ministro Padoan che andiamo ad ascoltare. Durante queste settimane abbiamo assistito anche a polemiche in Consulte. Il governo è stato accusato alternativamente di non aver fatto nulla o al contrario di aver interferito oltre le proprie prerogative. Molto spesso le polemiche si sono basate su informazioni del tutto fantasiose e strumentalizzazioni che finiscono per nuocere al settore e al Paese. È invece necessario valutare in modo preciso sia gli stress test condotti dalle autorità bancarie europee, sia il piano di rilancio del Monte dei Paschi di Siena. E così dunque il ministro dell'economia Padoan che ha difeso l'operato del governo. In sostanza, se facciamo qualcosa veniamo criticati, se non facciamo nulla lo stesso, dice Padoan. Ed ancora, per quanto riguarda il Monte dei Paschi di Siena, non performing loans da smaltire, l'elevato stock di crediti deteriorati non è di per sé una minaccia per la stabilità finanziaria, visto che le risorse che le banche hanno accantonato a copertura di tali crediti e le garanzie che li assistono sono ampie, ha detto il ministro Padoan. Ascoltiamo allora questo passaggio. L'elevato stock di crediti deteriorati non è di per sé una minaccia per la stabilità finanziaria, visto che le risorse che le banche hanno accantonato a copertura di tali crediti e le garanzie che li assistono sono ampie. Il loro riassorbimento è necessario per facilitare la ripresa del credito a imprese e famiglie e ridurne il costo. Ma questo processo richiederà inevitabilmente del tempo per completarsi e dovrà essere valutato in un orizzonte temporale di medio periodo. Dunque, secondo il ministro Padoan, con le polemiche sulle banche si nuoce al Paese. Questo da una parte, e dall'altra parte le sofferenze non sono comunque una minaccia per la stabilità del sistema del credito italiano. Questi due messaggi più importanti arrivati da via 20 settembre al Parlamento. Allora commentiamo le parole di Padoan con il collega Marco Ferrando, collega del Sole 24 Ore. Buon pomeriggio Marco. Buongiorno Vincenzo, buongiorno a tutti. Ecco, commentiamo Marco queste parole di Padoan. È giusto quando Padoan dice comunque ci accusate, rivolto alle forze politiche, di fare male il nostro lavoro, sia se interveniamo sul mercato del credito, sia che non lo facciamo. Allora, torniamo a commentare il momento del sistema del credito italiano e le parole del ministro Padoan. Marco. Sì, ma anzitutto Vincenzo, se permetti, secondo me andrebbe sottolineato il fatto che è piuttosto insolito che un ministro sia chiamato a fare un'informativa urgente sullo stato delle banche. Di solito i ministri parlano dell'attività del governo, in questo caso invece Sarà che Padoan è un economista, però veramente il Parlamento ha chiesto di fare luce su una situazione che evidentemente è percepita come molto confusa, e questo secondo me dà un po' la misura dei tanti elementi che compongono questa fase davvero molto, molto complicata e molto incerta. Ma anzitutto parliamo del governo, quello che ha fatto, che anche credo, da quello che vedo, un po' l'oggetto del dibattito in corso in Parlamento. Il governo sta intervenendo, ormai nell'ultimo anno e mezzo ha inanellato una serie di provvedimenti, dalla riforma delle popolari, era gennaio 2015, quindi parliamo di un anno e mezzo fa, la riforma delle fondazioni, si è parlato delle BCC, eccetera, eccetera. Come dire, ormai da tempo il dossier banche è sul tavolo del governo. Il problema è che la situazione complessivamente si è aggravata nel corso dei mesi, probabilmente l'elemento, come dire, lo scalino è stato il fallimento pilotato, la risoluzione delle quattro banche del novembre scorso, certo. di cui oggi si è molto parlato, insomma Padoan ci è tornato più volte. Questo ha fatto capire che il problema effettivamente poteva essere di dimensioni maggiori, anche perché il problema riguardava direttamente anche i risparmiatori. Non dimentichiamo che nel salvataggio sono stati di fatto bruciati 400 milioni di obbligazioni che erano nelle tasche dei risparmiatori, che ora sono in fase di rimborso, ma comunque un effetto spavento c'è stato. Il mercato poi ci ha messo il suo. Da gennaio è partita una campagna di vendite smisurata. L'anno scorso, nel 2015, il mercato aveva comprato le banche italiane, e nel 2016 ha fatto l'opposto e continua a farlo. Ed ecco quindi che il governo, che ha fatto una serie di cose, è finito sul banco degli imputati, perché evidentemente si ritiene che non abbia fatto abbastanza. Su questo il giudizio, dal mio punto di vista, è parzialmente vero, nel senso che le banche sono comunque un ingranaggio fondamentale del nostro sistema, per cui poter intervenire efficacemente non è facile per la politica. Per di più, non dimentichiamo che alcune delle misure che sono state prese o che potrebbero essere prese politicamente sono molto difficili. Se lo Stato ci mette soldi pubblici, crea evidentemente polemiche, perché si aiutano le banche, certo, eccetera eccetera. Se non lo fa, c'è un problema di sfiducia del mercato e quindi dei risparmiatori. Oggettivamente è un tema molto delicato. Ecco, Padoan torna a dire l'elevato stock di crediti deteriorati non è di per sé una minaccia per la stabilità finanziaria, però poi, Marco, allo stato degli atti i mercati proprio su questo punto insistono e secondo tutti gli analisti è proprio questo elemento che porta in giù le banche italiane a Piazza Affari. Sì, hai ragione, l'abbiamo scritto parecchio, soprattutto negli ultimi giorni. Sicuramente è un pretesto che il mercato, siamo in agosto e questo non è secondario, è un pretesto che il mercato sta utilizzando per vendere le banche, quindi per seminare sfiducia sulle banche italiane. Quindi sicuramente la percezione che il mercato ha è artificiosamente più grave di quello che è, diciamo, il problema. Però il problema comunque esiste, perché soltanto le banche italiane hanno 360 miliardi di crediti deteriorati lordi nei propri bilanci. È un problema gestibile, però ci vuole tempo e ci vuole un clima diverso da quello che c'è in questo momento. Quindi sicuramente ha ragione Padoan nel dire che le banche non stanno così male come si dice, che il problema dei crediti deteriorati non è così grave come si ritiene, però è anche vero che lo si sta smaltendo troppo lentamente per poter confermare questa percezione al mercato. Ecco, è proprio la velocità dello smaltimento di quella massa di sofferenza che preoccupa un po' tutti. E ricordiamo che Padoan oggi in realtà interveniva soprattutto su Monte dei Paschi. E allora, Marco, abbiamo visto come si stiano un po' tirando indietro nel finanziare il fondo Atlante, che poi dovrebbe intervenire su Monte Paschi, per esempio le casse previdenziali. Lo stesso Padoan ha detto un investimento in Atlante rientra nella piena prerogativa e autonomia decisionale degli enti, che autonomamente potranno decidere di destinare le proprie risorse a questo tipo di impiego. Però abbiamo già visto che da parte di queste casse vi sono dei forti dubbi in investire in Atlante. Allora, prima di sentire il tuo commento, farei ascoltare Padoan proprio su questo passaggio. L'effettivo coinvolgimento dei singoli enti previdenziali alla iniziativa di Atlante dipende esclusivamente dalle autonome valutazioni e decisioni dei singoli organi di amministrazione delle singole casse e fondi. Questi, operando per mandato nel solo interesse dei propri aderenti, valuteranno il possibile coinvolgimento alla stregua di un qualsiasi altro investimento, ponderandone la congruità con i propri obiettivi di rischio e rendimento all'interno dell'orizzonte di lungo termine entro cui dispiegano la propria attività. A questa impostazione si è sempre attenuto il Governo. Riteniamo infatti che non possa e non debba esserci alcuna ingerenza sulle scelte gestionali ed operative delle casse previdenziali. Aggiungo anche che l'eventuale e libera partecipazione degli enti previdenziali al capitale del Fondo Atlante 2 riguarderebbe un ammontare residuale rispetto al loro patrimonio complessivo. Non pregiudica il risparmio previdenziale ad esso affidato, che deve essere investito ottimizzando la combinazione rischio-rendimento nel contesto di un'ampia diversificazione e di un'attenta valutazione e monitoraggio dei rischi. Si tratta di un'operazione di iniziativa privata e di mercato, realizzata secondo una logica di sistema e preordinata a rafforzare la stabilità del sistema paese nel suo complesso, di irrobustire il quadro macroeconomico, in particolare il sentiero di crescita. E così dunque le parole di Padoan. Padoan dice: l'investimento delle casse sarà comunque residuale, intende marginale rispetto all'ammontare totale, sarà su base volontaria, però evidentemente sono parole che non convincono l'Associazione delle Casse Previdenziali. Lo stesso presidente Alberto Oliveti dice: allo stato attuale non ci sono le condizioni per procedere all'investimento. Allora Marco, perché non c'è questa fiducia in investire in Atlante 2 e quindi conseguentemente in Monte Paschi? Ma dunque, vale la pena fare un attimo un passo indietro. L'operazione Atlante è nata ad aprile come fondo che avrebbe dovuto investire nelle ricapitalizzazioni e negli NPL. Sono stati raccolti circa 4 miliardi, in gran parte dalle banche, assicurazioni, ci ha messo qualcosa da CDP. Ha investito effettivamente negli aumenti di capitale di Veneto Banca e Popolare Vicenza, poi si è deciso di fare un Atlante 2. Atlante 2 è specializzato nei soli NPL ed è proprio Atlante 2 che investirà sulla cartolarizzazione del Monte dei Paschi e potrebbe investire in altre cartolarizzazioni. Ed è qui che si chiede si invitano. Poi quanto ci sia di coercitivo in questo invito non lo so, probabilmente lo sanno meglio i presidenti, certo, delle casse, però in ogni caso sì, il governo, come dire, ha formulato l'auspicio che le casse investissero. Ora, la questione è un po', è un po' di lana caprina, nel senso che loro, le casse, si difendono dicendo ci prendiamo troppi rischi se andiamo a investire sugli NPL. E questo in parte forse è vero, però è anche vero che un fondo Atlante 2 che non investe sugli aumenti di capitale, che è la parte più rischiosa, ma investe sugli NPL, peraltro lo schema MPS dice non sulla tranche più rischiosa, ma quella che sta a metà tra quella senior e quella junior che è a carico delle banche, in realtà rende l'investimento molto meno rischioso di come poteva essere anche solo qualche settimana o mese fa. Quindi di per sé mi sembra che la situazione sia abbastanza ambigua. Probabilmente il governo, forse al di là delle parole di Padoan che giustamente dice una libera scelta, però da quello che risulta un po' di pressioni ci sono state, il governo forse è stato un po' troppo forte nell'esercitare le pressioni. Al tempo stesso mi viene da dire che i motivi che mettono sul tavolo le casse siano altrettanto pretestuosi, nel senso che comunque hanno le casse, così come tutte le istituzioni che hanno grandi patrimoni da investire diversificando, effettivamente pensare che mettano un chip, perché poi come diceva giustamente Padoan una quota residuale, su un fondo specializzato negli NPL non sarebbe dal mio punto di vista così fuori dagli schemi di diversificazione del rischio. Ecco, quindi cautela da parte delle casse, Marco, ma leggo adesso un'altra agenzia: il gruppo assicurativo AXA è d'accordo sul principio del piano di riassetto di Monte Paschi, ma afferma il direttore finanziario del gruppo Gerard Harlin, aspettiamo i dettagli per pronunciarci su una partecipazione. Insomma, c'è molta attesa da parte di coloro che potrebbero mettere i soldi. Abbiamo detto delle casse, anche adesso un grande gruppo assicurativo. Sì, AXA è coinvolto coinvolto in doppia veste di fatto su MPS, da un lato perché azionista diretto, quindi probabilmente si riferiva anche alla possibilità che AXA sottoscriva l'aumento di capitale, però AXA, in quanto compagnia assicurativa presente in Italia, è stato invitato a sottoscrivere quote di Atlante 1 e 2. Non dimentichiamo, Vincenzo, vale la pena di ricordare che comunque i fondi di cui Atlante già dispone, che sono circa 2 miliardi sulla carta, bastano ampiamente a coprire l'operazione MPS, quindi un eventuale contributo delle casse o di altri, per dire Generali ha detto pochi giorni fa che ci metterà 200 milioni, servirebbe a finanziare altri interventi. Quindi il tema non è senza le casse non si salva a Monte dei Paschi, ma se le casse ci mettessero qualcosa si potrebbe pensare di replicare lo schema anche su altre banche. E questo, se vogliamo, è un punto non indifferente, perché se Atlante aumentasse la sua potenza di fuoco, sicuramente le ripercussioni a livello generale sul sistema e quindi sul riprezzamento dei crediti deteriorati potrebbero essere decisamente significative. Marco, resta con noi, ci fermiamo un attimo, spazio al meteo. Focus Economia. Minuti, Focus Economia, riprendiamo il nostro percorso che stiamo facendo insieme al collega del Sole 24 Ore Marco Ferrando. Stiamo parlando di banche, soprattutto dell'informativa del governo nella persona del ministro dell'economia Padoan, informativa urgente oggi sul sistema bancario italiano e soprattutto su Monte dei Paschi di Siena. Con Marco Ferrando stavamo parlando nello specifico di Monte Paschi e delle difficoltà che in queste ore sta avendo il Fondo Atlante 2 a ricevere ulteriori contributi. In questo caso vi sarebbero serie perplessità da parte del gruppo assicurativo AXA, ma anche delle casse previdenziali. Marco, invece, per esempio, leggendo il Financial Times, si dice e si legge: dopo 500 anni di elargizioni facili, svolta per Siena. Questo per dire che forse dovremmo anche guardare con un occhio un po' più da lontano la vicenda Monte dei Paschi e valutare forse quella che effettivamente è una nuova prospettiva per Monte Paschi, al di là poi di chi finanzi Atlante 2. Sì, è corretto. Di fatto si è saputo, che si è avuta la conferma venerdì, che il Monte, se tutto va come deve andare, e speriamo che tutto vada come deve andare, e di fatto tra ottobre e novembre chiederà 5 miliardi al mercato. Oggi la banca ne capitalizza circa il 10%, un po' di più, insomma 700-800 milioni. Di fatto sarà una nuova IPO, una nuova quotazione, quindi non è sbagliato pensare che sia un nuovo inizio per la storia del Monte, perché i soci attuali, a meno che non sottoscrivano, ma tanto sono molto pochi quelli, diciamo, forti, spariranno, si vedrà quali saranno i nuovi soci che il mercato metterà insieme. Quindi effettivamente l'FT non ha torto, sarà sicuramente un nuovo inizio per la banca. E su questo è un elemento importante il fatto che ci sia Mediobanca, ma soprattutto ci sia JP Morgan a mettere un po' il cappello sull'operazione. Sicuramente non è secondario, vuol dire che il mercato non diciamo ci crede, ma perlomeno ritiene pensabile dare un nuovo futuro a questa banca, e questo credo vada anche associato come elemento di fiducia comunque sull'Italia. Non dimentichiamo, è la terza banca italiana, quindi si ritiene che il sottostante, cioè il paese in cui opera e quindi l'Italia, meritino fiducia. Vedremo, insomma, diciamo che in questi giorni diversi analisti hanno posto l'accento sui rischi di esecuzione del piano, perché il piano non è assolutamente in porto, andrà ancora tutta una serie di nodi che andranno sciolti, non ultimo il clima sul mercato. Anche gli aumenti di Popolare Vicenza e Veneto Banca dei mesi scorsi sembravano di fatto nel cassetto, invece poi si è capito che senza Atlante non si sarebbero fatti. Quindi c'è ancora tutta una serie di, c'è un'alea, come dire, che circonda questa operazione, però sicuramente il fatto che ci siano questi soggetti, queste banche d'affari, l'avallo della BCE, il sostegno politico, certo, diciamo, lasciano ben sperare. Ecco Marco, un ascoltatore ci scrive al 349-238-6666 e fa un paragone tra questa richiesta alle casse previdenziali di entrare in Atlante 2 a ciò che avvenne in Argentina. L'ascoltatore dice: l'Argentina di Kirchner fece razzia nei fondi pensione e sappiamo poi come è andato. Beh, mi sembra che la situazione sia nettamente, non siano paragonabili. No, direi assolutamente no. Se è vero che i crediti deteriorati sono così tanti e di fatto rallentano l'ingranaggio delle banche, che è fondamentale per l'economia italiana, contribuire a oliare questo ingranaggio può sicuramente aiutare l'economia italiana a riprendersi. Quindi il fatto che l'intervento chirurgico su Atlante possa dare un contributo all'economia di per sé non è sbagliato. Quindi il motivo per cui il governo si è permesso di fare un appello alle casse previdenziali non è sbagliato. Lo stesso motivo per cui le assicurazioni investono. Perché investono? Mica per beneficenza, lo fanno perché sanno che se le condizioni di mercato generali sull'Italia migliorano, anche le assicurazioni che operano in Italia ne hanno un beneficio. E lo stesso discorso vale, come dire, facendo i dovuti paragoni, per le casse previdenziali, in quanto soggetti che tutelano dei lavoratori che lavorano in Italia, che, certo, che devono, come dire, godere di una situazione di crescita, se non altro per veder salvaguardato il proprio posto di lavoro. Quindi mi sembra francamente molto azzardato come paragone. Certo. E un'altra domanda dal 349-238-6666 chiede: non è che la speculazione prenda spunto dai non performing loans per comunque mettere le mani su istituti italiani molto importanti a prezzi decisamente più bassi? Verrebbe da dire magari, nel senso che noi purtroppo è da mesi che facciamo questo ragionamento. Sul Monte si è fatto più volte, visto che tra l'altro il Monte ha chiesto più volte tanti soldi al mercato recentemente. Può essere, non è escluso, ma mi sembra quantomeno improbabile. Oggi purtroppo le banche non le vuole nessuno, che siano a sconto oppure no. Quindi pensare che ci sia qualcuno che vuole comprarsi Monte dei Paschi per due soldi mi sembra difficile. Basta vedere quello che accade non solo in Italia ma in Europa. Ad oggi nessuno vuole comprare banche, quindi pensare che ci sia qualcuno che sogna di portarsi via le nostre banche per quanto un prezzo scontato mi viene da dire troppo bello per essere vero. Troppo bello. E qui mi inserisco con un'ultima domanda, ti rubo un altro minuto Marco, perché nessuno vuole le banche, tu dici, e questo sembrerebbe vero guardando ciò che è successo ieri con Intesa, ha annunciato numeri positivi e il mercato l'ha penalizzata. Oggi numeri invece effettivi di Unicredit con utili addirittura superiori alle attese, se non sbaglio, e anche qui il titolo è andato male. Insomma, il mercato non riusciamo più a capirlo molto bene. Sì, quali sono le logiche dietro a questo? Ecco. Sì, è corretto. Indubbiamente l'esempio di ieri di Intesa è eclatante, nel senso che ieri il consigliere delegato Messina non solo ha detto che sono confermati i 3 miliardi di dividendi previsti per quest'anno, ma addirittura i 4 del 2017. Certo. Quindi è un messaggio importante in un momento in cui le banche faticano a fare utile e quindi faticano a distribuire dividendi. Ciò nonostante il titolo è chiuso male. Oggi Unicredit, in realtà è vero, i conti per certi aspetti sono stati migliori delle attese, ma è anche vero che dal punto di vista del capitale c'è stata qualche correzione al ribasso. Unicredit non è un mistero, sta studiando un piano di rafforzamento del capitale che sicuramente prevederà un aumento, quindi il mercato ritiene che questo aumento possa arrivare in tempi abbastanza rapidi e teme che possa arrivare su un ammontare anche superiore a quello che si prevedeva. Bene, bene, grazie al collega Marco Ferrando, collega del Sole 24 ore. Noi ci fermiamo qui, cambiamo argomento e veniamo proprio ad analizzare la giornata di borsa. Giornata di borsa che commentiamo insieme alla collega di Radio Corso Le 24 Ore, Eleonora Micheli. Buon pomeriggio, Eleonora. Buon pomeriggio. Eleonora, FTSE MIB 0,20 per una giornata che prima abbiamo definito con alti e bassi. Esatto, il FTSE MIB quest'oggi ha più volte cambiato la direzione di marcia, del resto anche le banche soprattutto hanno più volte cambiato la propria impostazione. Unicredit comunque alla fine è scivolata del 2,28%, ma nel pomeriggio ad esempio è arrivata a cedere oltre il 5% proprio dopo la diffusione della semestrale di cui parlavate poco fa. Semestrale risultata inutile, anzi tutto sommato al di sopra delle attese. D'altra parte gli analisti continuano iniziarono a ragionare sulla necessità che la banca debba effettuare un aumento di capitale, si parla addirittura di 7-8 miliardi e nel corso della conference call il numero uno Jean-Pierre Mustier non si è sbilanciato, ha solo detto che tutto verrà chiarito nel corso della presentazione del piano industriale, ma nemmeno ha detto quando, se non entro fine anno. Ecco, sin qui dunque Unicredit. Per quanto riguarda gli altri titoli del settore bancario, abbiamo visto sin da stamattina delle oscillazioni molto decise, per esempio in Monte dei Paschi. Esatto, gli altri titoli hanno provato il rimbalzo, Monte Paschi alla fine ha recuperato l'1,8%, ma ricordiamo che ieri purtroppo era scivolato del 16%, Biper è rimbalzata del 4%, insomma ci sono un po' stati di ordini in acquisto, ma bisognerà vedere nelle prossime sedute. Poi comunque ricordiamo che è agosto e quindi la borsa è molto volatile. Semmai invece il focus di giornata è stato senza dubbio FCA, che certo, non a caso è salita di oltre l'8%, l'ipotesi che è circolata a Piazza Affari e che tuttavia non è stata commentata dal gruppo se non con un no comment appunto, è che Samsung si è interessata a rilevare non solo degli asset di Magneti Marelli, ma probabilmente l'intera Magneti Marelli, sarebbe disposta a mettere sul piatto addirittura 3 miliardi di dollari a concludere l'operazione entro fine anno. L'ipotesi evidentemente piace al mercato, anche gli analisti hanno già espresso diciamo delle valutazioni positive e questo giustifica il balzo di oltre l'8% delle FCA. Ieri un buon balzo per Ferrari, oggi un balzo per FCA e poi ancora Eleonora. Analizziamo invece un dato negativo che è relativo ad RCS. Sì, RCS quest'oggi è scivolata, in particolare ha accusato un tonfo dell'8%, peccato perché proprio oggi, ironia della sorte, la società editoriale ha pubblicato la trimestrale ed è la prima trimestrale inutile dopo diciamo una grande quantità di trimestrali che invece erano sempre in perdita. E d'altra parte ovviamente in questo caso pesa l'attesa per cosa succederà all'interno dell'azienda. Cairo si è recato alla società, per adesso non sappiamo niente, ma sicuramente ci potrebbe essere un rimpasto ai vertici con l'ingresso dello stesso Cairo che prende la plancia di comando. Comunque appunto la società ha chiuso il trimestre con un utile di 19,9 milioni, è poca cosa, ma dopo tanti trimestri in rosso ovviamente è un risultato molto positivo. Quindi risultato positivo per RCS per quanto riguarda l'utile, meno oggi quindi per quanto riguarda la valutazione in Piazza Affari. Le Poste invece, Eleonora, più 2%. Sì, le Poste quest'oggi sono andate molto bene, sono state gettonate. Ieri a borsa chiusa la società ha diffuso i conti del semestre, anche in questo caso sono andati bene, forse meglio delle attese. La società ha archiviato un utile nel semestre di 90 milioni ha archiviato un utile consistente e quindi è stata premiata. Soprattutto poi l'amministratore delegato Francesco Caio ha indicato che con grande probabilità gli utili verranno distribuiti sotto forma di cedole, in particolare ha parlato di un 80% di utili che potrebbero essere distribuiti appunto come dividendi, cosa che sempre piace al mercato. Al mercato invece non è piaciuto tantissimo l'andamento dei ricavi in rallentamento di Ferragamo. Sì, Ferragamo invece appunto anche in questo caso i dati sono stati diffusi ieri a borsa chiusa, sono dati a luce e ombre, anche i ricavi, eravamo abituati a vedere ricavi in gran rialzo, ma un po' come tutto il settore del lusso alla fine ha registrato una lieve frenata, i ricavi sono calati dell'1,7%, anche l'utile alla fine è stato abbastanza in linea, adesso poi è tutto da vedere cosa succederà. Ricordiamo che ieri la semestrale era l'ultima firmata dall'amministratore delegato Norsa, da quest'oggi invece è entrato al comando dell'azienda Eraldo Poletto, che è appunto un manager già conosciuto nel settore della moda. Grazie ad Eleonora Micheli, collega di Radio Corsole 24 ore, noi ci fermiamo, spazio ora alle strade. Focus Economia. 17.47, di nuovo insieme Focus Economia per l'ultima parte della trasmissione di oggi dedicata all'andamento dei consumi. Analizziamo il rapporto Club Consumo di Prometeia e con noi, e la ringraziamo, Patrizia Di Cicco, Senior Economist di Prometeia. Buonasera. Buonasera, grazie a voi. Grazie. Prosegue in Italia, secondo il vostro rapporto, la ripresa dei consumi interni, che però rimane debole anche rispetto agli altri paesi europei. Nel primo trimestre del 2016 i consumi interni hanno mostrato un aumento più 0,3% sul precedente e più 1,6% sul corrispondente a prezzi costanti, contribuendo per 0,2 di punto alla crescita del prodotto interno lordo. Più vivaci nello specifico i beni durevoli, più 6%, ma sempre inferiori rispetto agli altri paesi europei. Insomma, introduciamo questo argomento dicendo in che stato di salute, in base ai consumi, secondo lei ha il nostro paese. Allora, lo stato di salute è quello comunque di un aggregato, possiamo dire, di una variabile che sta crescendo però a ritmi contenuti rispetto alla forte caduta che abbiamo comunque osservato negli anni di crisi di reddito e delle famiglie in Italia. È una ripresa contenuta che, come comunque abbiamo accennato lei, comunque è una ripresa che si ferma al 6% in termini tendenziali, a fronte di una contrazione che ha superato l'8% negli anni precedenti la crisi. Confrontata rispetto all'andamento dei principali paesi europei, è altrettanto contenuta, soprattutto nei confronti della Spagna, che è un paese che, come l'Italia, diversamente dalla Francia e la Germania, ha avuto un deterioramento altrettanto intenso di redditi e di consumi, certo, delle famiglie. Certo. Possiamo dire, ecco, utilizzando magari una metafora, un bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto, ecco, io lo vedrei mezzo pieno. Comunque i consumi hanno ripreso a crescere già dalla metà del 2013 in termini congiunturali, quindi rispetto al trimestre precedente. La crescita è continuata in modo quasi senza soluzione di continuità, quindi senza arrestarsi, e questo è già un buon segnale. È un segnale di fiducia delle famiglie che fino a qualche mese fa era abbastanza evidente anche dall'indicatore che ci comunica l'Istat. Prego. Che cosa, ecco, sta influendo sulla capacità proprio di spesa delle famiglie italiane? È più un fatto di reddito disponibile al momento o la preoccupazione per quello che potrà essere il futuro e quindi si evita di consumare? Allora, direi che dal punto di vista delle determinanti economiche, quindi del reddito, abbiamo un momento finalmente favorevole, perché comunque i redditi, perlomeno i dati fino al primo trimestre dell'anno, sono positivi, quindi il reddito e il potere d'acquisto in modo particolare, quindi al netto della crescita dei prezzi, che è nulla, anzi comunque negativa come sappiamo, è in crescita, e questo comunque è un elemento favorevole. Quello che sta incidendo è un fattore incertezza e instabilità. A inizio anno abbiamo visto dei dati un po' altalenanti della fiducia, che erano legati più alla questione interna politica è legata magari anche alle prime ravvisaglie di un sistema bancario un po' in difficoltà. Negli ultimi mesi, quello e soprattutto in prospettiva, ecco, quello che ci aspettiamo è che nella seconda parte dell'anno la fiducia delle famiglie italiane, ma probabilmente anche degli altri principali paesi europei, possa in qualche modo essere impaccata da una situazione di incertezza legata agli avvenimenti geopolitici, agli atti terroristici, che insomma stanno condizionando purtroppo la serenità e la fiducia, certo, nel futuro delle famiglie, non soltanto in Italia. Questo cosa comporta? Comporta una spirale chiaramente che impatta negativamente poi sulla volontà, la decisione, l'intenzione di spesa, perché a quel punto le famiglie cercheranno di avere un atteggiamento più cauto e continueranno, a nostro avviso, a rinnovare quella dotazione di beni durevoli che sono stata molto impaccata negli anni precedenti, quindi posticipata. Ecco, quindi per beni durevoli che cosa intendiamo? Cosa intendiamo? Innanzitutto mezzi di trasporto, auto e moto, i cui acquisti negli anni clou, possiamo dire, la crisi dei redditi in Italia sono calati del 60% termini di immatricolato, quindi praticamente un mercato più che dimezzato. Le famiglie hanno praticamente bloccato il rinnovo dell'auto. Sappiamo del parco macchine, certo. Sappiamo che è un parco comunque obsoleto, che ha bisogno comunque di essere rinnovato, quindi il rinnovo è stato bloccato, idem i nuovi acquisti, in attesa di miglioramento dei redditi. Nel momento in cui il miglioramento dei redditi si è concretizzato, vediamo già da 2 anni una ripresa, anche insomma più sostenuta anche di quanto ci aspettassimo del mercato dei mezzi di trasporto, auto e moto. Questa ripresa continuerà, a nostro avviso, un anno in corso, attenuandosi un po' fisiologicamente, perché comunque abbiamo visto tassi di crescita anche abbastanza sostenuti, e un po' di effetto incertezza. Beni durevoli, mezzi di trasporto in primis, e poi c'è tutto il mondo dei beni durevoli dell'ambiente domestico, della casa, dagli elettrodomestici ai mobili, che anche quello è stato, in modo particolare ai mobili, perché sappiamo che gli elettrodomestici, insomma, sono beni che si possono rimandare, il cui acquisto può essere rimandato fino a un certo punto. Certo, vanno cambiati se si rompono, è logico. Va cambiato, perché purtroppo ci sono i costi di, possiamo dire, riparazione onerosi, che portano poi a effettivamente al nuovo acquisto piuttosto che alla riparazione. Idem per i mobili. Entrambi i comparti, a nostro avviso, registreranno una crescita della domanda, quindi consumi di nuovo. Che tra l'altro, mi scusi, tra l'altro i beni durevoli, mi dica se sbaglio, sono quelli sui quali si può accedere facilmente anche a una certa forma di finanziamento, e grazie anche ai tassi di interesse molto basso, sono molto vantaggiosi in questo momento. E infatti quello che le dicevo, le determinanti sono favorevoli, ora al di là del reddito, anche comunque gli elementi specifici sui consumi, in modo particolare elettrodomestici e mobili hanno questa agevolazione, quindi un mercato del credito e il consumo che è ripartito, e questo è anche un segnale che sono ripartiti i consumi, perché sono ripartiti quei prestiti finalizzati proprio per l'acquisto di determinati beni, e poi c'è anche tutto il discorso legato ad un miglioramento anche contenuto, ma un miglioramento del mercato immobiliare che riattiva poi l'acquisto, il primo acquisto dei mobili e degli elettrodomestici. Quindi tutto il mondo dei durevoli continuerà a crescere nell'anno in corso, anche nei prossimi anni. Magari il ciclo si attenuerà leggermente, legato più che altro proprio alla dinamica che immaginiamo dei redditi, però continuerà ad essere la voce di spesa più importante, verso la quale le famiglie sposteranno gran parte del budget disponibile per la spesa. Certamente, e ecco un aspetto che ci interessa molto, interessa anche ai nostri ascoltatori, in base agli sms al 349-238-6666, è vedere anche l'Italia paragonata al resto dell'Europa, e c'è molto interesse soprattutto se ha questi dati relativi al Regno Unito. Si può già ipotizzare di quanto la Brexit magari stia influenzando anche gli stessi consumatori di oltremanica? Allora, non ho dati specifici sui consumi del Regno Unito, cioè nel senso a livello di aggregati merceologici, ho un dato complessivo di consumi interni che tra l'altro Prometea porta anche in previsione fino al 2018. Ecco, la nostra valutazione è che insomma, gli effetti saranno più visibili al prossimo anno. Certo. Okay, la Brexit insomma è intervenuta a metà anno, quindi gran parte poi del 2016 sarà condizionato positivamente da quanto comunque già acquisito nell'anno in corso, e i dati che abbiamo analizzato sui consumi nel Regno Unito sono comunque positivi e si attenueranno molto il prossimo anno, quasi annullandosi, perché comunque stimiamo un calo del potere d'acquisto delle famiglie inglesi dal prossimo anno, vi aspetto fiducia e vi aspetto chiaramente poi vi aspetto sterlina. Ecco, avete elementi, tornando invece per quanto riguarda all'Italia, a livello aggregato, per quanto riguarda settori merceologici che siano differenti dai beni durevoli, ci sono delle spese particolari che gli italiani sono tornati a fare negli ultimi 2 anni, o si sono concentrati solamente sui cosiddetti beni durevoli? I dati li abbiamo, infatti poi tra l'altro il report Club Consumo è un report che analizza nello specifico i diversi segmenti merceologici partendo dai dati dell'Istat. Il grosso, oltre al beni durevoli, è tutto il mondo dei servizi, e in modo particolare quello che abbiamo osservato è stata una ripresa dei servizi ricreativi e legati al tempo libero, servizi ricreativi e culturali. Cosa intendo? Guardando anche banalmente i dati delle presenze presso le sale cinematografiche, da un paio di anni abbiamo di nuovo una domanda in crescita nei confronti di questa forma di intrattenimento, che negli anni di crisi è stata una delle forme maggiormente penalizzate, anche per il costo banalmente più elevato rispetto alle forme di intrattenimento meno costose. E poi tutto il discorso legato ai viaggi e alle vacanze. Altri indicatori ci segnalano negli ultimi anni una ripresa del traffico dei veicoli leggeri, che è comunque una proxy della ripresa della mobilità delle famiglie, legata non soltanto alla ripresa del lavoro, quindi una mobilità per lavoro, ma legata anche ad una mobilità Benissimo. Del tempo libero. Associato a questo anche un sentiment più positivo della ristorazione commerciale, che ci dà l'indicazione che si sta muovendo. Benissimo, qualcosa si sta muovendo. Grazie a Patrizia Di Cicco, senior economist di Prometeia. Siamo in chiusura. Un ringraziamento a Mauro Del Corno e Barbara Bianchi per l'assistenza al programma. Valerio Rocchetti e Andrea Roccabella in regia. Un saluto da Vincenzo Miglietta. Radio 24. La passione si sente.